fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Risto Radio Convento, eccoci qui, buonasera, è il sabato 30 di giugno 2018, io sono Master Nick e questa, come detto, è Risto Radio Convento, la web radio del convento di Nonato del Garda, che come sempre è uno spazio per raccontarsi e per raccontare. Cosa significa? Che liberamente potete entrare qui per fare due chiacchiere e raccontare la vostra serata, la vostra festa, e così stiamo facendo e faremo nei prossimi minuti con la prima protagonista di questa serata, di questo sabato Dinner and Dance. Mi piace questo suo modo di accogliersi applaudendosi, c'è stima di se stessi, che è importante. E allora dai, diamo il benvenuto a... Martina. Oh, Martina, benvenuta. Allora dai, parlaci un po' di te, da dove vieni, cosa fai? Vengo da Reggio Emilia, sono un architetto, per ora mi accontento di collaborare con un ingegnere sperando di, insomma, di trovare la mia strada. Ah, un architetto sognatore. Dove hai fatto architettura, tra l'altro? A Parma. Perché so da amici comuni che c'è una buona... come dire, una buona scuola di architetti, sì, che è uscita da quelle zone, molto rinomata e anche molto frequentata, sì, come università. E al di là di questo, però, c'è anche un evento importante che tu stai festeggiando, sì, e festeggerai soprattutto... Il mio addio al nubilato. Grande! Oh, brava, brava, vedi che c'ha il tifo, Martina. Tra pochi mesi mi sposo e quindi... Quando? Dici tutto. Il 25 agosto 2018. 25 agosto, sì, e quindi confermi... Tra meno di due mesi. Assolutamente, ma devi sapere, non ne eri a conoscenza, che tu confermi una tendenza che potremmo dire estrema in quest'estate 2018. Noi stiamo facendo un sondaggio spot, senza che nessuno sappia che c'è questo sondaggio. È il quinto matrimonio in due sabati che si festeggia il 25, davvero?, di agosto. E infatti quindi, me l'hanno detto. Cioè, sta spopolando. Sta spopolando questa data, e quindi volevo dare un'informazione molto importante a tutti gli addetti all'infotraffico. Non direte nulla il 25 di agosto perché non ci sarà nessuno per le strade, no, saranno tutti seduti a tavola. Esatto, sì, tutti seduti a tavola nei vari matrimoni d'Italia. E come diciamo sempre quando parliamo di questo mini sondaggio che stiamo creando, è bello che voi sposi decidiate di rovinare le vacanze e tutti i tipi di progetti di ferie a tutti i vostri amici, che assolutamente saranno contenti di questo, e ancor più sicuramente vi ritroverete completamente soli dal giorno dopo il matrimonio, senza più amici e persone da frequentare. Detto questo, grazie perché hai confermato, hai messo, diciamo così, un tassello in più nel nostro piccolo sondaggio. Con chi ti sposi e quando ce l'hai con detto? Con Luigi. Luigi. E avete organizzato qualcosa di particolare? Siete persone del famoso matrimonio da favola o qualcosa di tradizionale? Matrimonio normale. Tradizionale. Dove? La cerimonia a Castelnuovo Monti e poi il resto, diciamo, del ristorante a Scandiano. Scandiano, che è sempre lì, sì, sul Parmense, Reggiano, quindi rimanete, Reggiano, rimanete comunque in zona. Vi conoscete da tanto con Luigi? Da nove anni. Nove anni, beh, sì, insomma, è tanto... È un bel pezzo sì, di vita, e... però, insomma, comunque non è la classica storia da banco di scuola, o sì? No, assolutamente. È un po' più adulta, no, un po' più matura. Ci siamo conosciuti ad una festa, sì, in paese. Sì. Com'è andata? ci siamo conosciuti tra amici, diciamo, sì, e abbiamo cominciato a chiacchierare così, e da lì è nato tutto. Dopo una settimana... Una settimana, sì. Già sposati? No, ma scusa. No, dopo pensavo già. Sì, dopo una settimana... per nove anni, diciamo che... Fantastico. Madonna, è classico colpo di fulmine. Sì. Pensavo dopo una settimana già ci eravamo accordati di, sul no, matrimonio, no, come sposarci e tutto il resto. Ci avevamo già deciso il 25 di agosto come no, data. No, però... Beh, però dopo una settimana è poco. Sì, quindi vuol dire che è stato poco, proprio non boom, ci conoscevamo e ci siamo conosciuti, fuochi d'artificio, esatto, colpo di fulmine. Tra l'altro è bello, è anche no, vabbè, forse nove anni fa erano anche tempi diversi, però che comunque ci sia ancora quell'usanza che ormai è quasi dimenticata, che parlandosi faccia a faccia, sì, ci si possa anche piacere, no, quindi non è che funzioni solo col Facebook, col no, cellularino, con i messaggini e con no, tutte quelle cose colpo che di fulmine. Io con tutte quelle cose che e... che escludono, sì, il coraggio anche di mettersi in gioco, no, di insomma di confrontarsi anche col mondo esterno, quindi è bello portare, sì, esempi di concreta di concreta conoscenza tra due persone. Allora, fondamentale. È fondamentale, assolutamente sì. Io so che hai anche un capo ultras che praticamente ogni tuo respiro applaude. Quindi si vede che o ti vuole molto bene, oppure allora le case sono tre: o ti vuole molto bene, o hai fatto in modo di pagarle la serata e offrire la serata e lei è contenta. E no, una risata anche contagiosa. Oppure le hai promesso dei regali, dei favori, non lo so, perché no, esaltatissima. Le voglio tanto bene. Le vuoi tanto bene? Ma che bello, ma che bello. Come ti chiami? Così Federica. Facciamo parlare anche lei. Federica, da dove? Sempre da provincia di Parma. Vabbè, insomma, siamo sempre lì. Sì, siamo sempre lì. Sempre in zona. Qual sì. è il tuo tipo di legame con la nostra Martina? Beh, ci conosciamo da quando andavamo alle superiori. Sì. E questo sì, è il classico rapporto da banco di scuola. E da lì è un'amicizia che dura da ormai più di 10 anni. Che bello, che bello. Dai, facciamo così, descrivicela un po', dici, raccontaci qualcosa di lei. Che tipo è? Cosa le piace, i suoi hobby? Ma di grossi hobby magari non ne ha tanti. Una persona triste, è uno schifo. No. È buono, grossi hobby non ne ha, cos'è? Io non ho grossi hobby. Due persone tristi, bellissimo. Due persone tristi. No, siamo persone molto tranquille, cioè lei più che me sicuramente. Io pensavo che ti volesse bene, ti sta massacrando. Cioè siamo due persone tranquille, lei più di me, perché io buona, pam, pam, pam, pam. Poi? No, vabbè, insomma, io voglio un gran bene, quello sicuramente. Non si era capito. Non ce l'avevi ancora detto, non ce l'avevi ancora detto. Però non siete sole, assolutamente, perché ho visto che c'è un bel gruppetto che vi viene dietro. Chi vi siete portate con voi? Amiche, Altissime, colleghe, Federica. Cugine? Sì. Amiche. Una cugina? Cugina, sì. La mia testimone. Cos'hai detto? Tante Federiche? Tante sì, siamo in quattro Federiche. Quattro Federiche. Cosa siete? Un gruppo di una decina, se non ho visto sì, male. Nove. Quattro Federiche. È bello che si girano tutte, no? Sempre il solito vecchio gioco di chiamarne una e si girano. Nessuno. Esatto, si girano in cinque. Bene, bene, bene. Poi? Quindi quattro Federiche, una Martina. Una Alessia, Eleonora, una Sara e Sara. Sara, molto bene, molto bene. E poi c'era anche Vittoria che però è già andata a casa. Esatto, andata a casa. Lei chi è? Chi è lei? È la Federica? Federica. Beh, io cioè, tanto io ho il 50%. Allora, Martina il tuo lo conosco e quindi siamo 8. Ho il 50% esatto di beccarlo. Io sparo Federica, almeno 4 su 8 le prendo. Bene, bene, bene, mi fa piacere. E quindi dicevi una cugina e tutte amiche poi? Sì, tutte amiche. Tutte amiche, molto sì. bene, molto bene. Allora dai, siamo quasi in chiusura. Volete dirci qualcosa? Volete salutare qualcuno? Dire qualcosa al microfono? Io coglierlo? Io vorrei un in bocca al lupo alla Marti. Giusto, è giusto. Un passo che farà, che sicuramente andrà bene perché. Ma certo che andrà bene, orca voia. Cioè, due che si mettono insieme dopo una settimana che si conoscono, non può non andare bene. Poi perché se lo merita. Se lo merita, mi piace questo se lo merita. Come mai se lo merita? Aspetta, adesso mi piace questa. Come mai se lo merita? Beh, io quando creo un legame con una persona mi attacco un po' come una cozza. Sì. E dunque, cioè, diciamo che voglio più il bene delle altre persone che il mio. Ah, nel senso, certo. Se lo merita, auguri in quel senso, sì, certo. Sì. Auguri che sia proprio esplosivo. Il top, quello certo. Che vuole lei che si realizzi sempre, insomma. Bene, bene, bene. Vai, io Marta. Volevo ringraziare le mie amiche che sono stupende come al solito, che mi hanno portato qui. Col pulmino tutte insieme mi hanno fatto un regalo pulmino, bellissimo. Pulmino marchio di fabbrica di questa serata. Anzi, sì. approfittiamone, scusate se mi intrometto, ringraziamo tutti i pulmini che ci stanno ascoltando sì. e tutti i pulmini del nord Italia per e soprattutto Eleonora, la nostra autista. Sì. È giusto. Lei ci ha salvato. Addirittura. Una garanzia. Sì. Addirittura salvati. Sì. Bene, ci sono anche persone che salvano la vita, ci fa piacere. Allora, noi ringraziamo voi e vi diamo modo ancora in questi minuti che mancano di divertirvi ancora un po'. E in bocca al lupo ovviamente a Martina per il tuo futuro matrimonio e soprattutto Grazie. Per la tua desiderosa carriera professionale che tanto, Grazie, che tanto che... cerchi. Dai, vedrai che andrà bene, anche perché è un bel sogno, un bel lavoro quello che ti sei scelta. Quindi vedrai che andrà sicuramente bene. E un grazie alla tifosissima numero uno della Curva Nord. Grazie mille. Allora, grazie ragazzi ancora. Buonanotte e buon divertimento. Ciao! Ciao!